Letture di Radio 24. Nel 1944 lo scrittore inglese George Orwell è impegnato nella realizzazione di programmi radiofonici in India, che all'epoca era ancora una colonia inglese. Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza della letteratura inglese e soprattutto delle poesie, che spesso vengono lette dagli stessi autori. In un saggio pubblicato l'anno successivo, l'autore della Fattoria degli animali rievoca quell'esperienza. Questi programmi non erano di grande valore in sé. Se li ho ricordati è per le riflessioni che hanno suscitato in me sulle possibilità della radio come mezzo di divulgazione della poesia. Prima di tutto, sono stato colpito dal fatto che la lettura di una poesia da parte di chi l'ha scritta non si limita a produrre un effetto sul pubblico, ammesso che di pubblico ce ne sia, ma anche sullo stesso poeta. Stando attaccato a un microfono, soprattutto se questo accade regolarmente, il poeta viene portato a un nuovo rapporto con il suo lavoro, risultato altrimenti non raggiungibile nel nostro tempo e nel nostro paese. È giusto ricordare l'opportunità unica che offre la radio, cioè la capacità di selezionare il pubblico giusto e di farla finita con la paura del palcoscenico e con l'imbarazzo. In trasmissione il pubblico è virtuale, ma è un pubblico fatto di tanti uno. Milioni possono essere in ascolto, ma ciascuno è in ascolto da solo o come membro di un piccolo gruppo, e ognuno ha, o dovrebbe avere, la sensazione che si stia parlando a lui individualmente. Non solo, è ragionevole supporre che il pubblico sia coinvolto, o almeno interessato, perché chi si annoia può prontamente spegnere la radio girando una semplice manopola. Ma anche se presumibilmente è coinvolto, il pubblico non ha alcun potere su voi poeti. È proprio in questo che una trasmissione si differenzia da un discorso o da una lezione. In cattedra vi risulterà evidente in pochi minuti a che cosa il pubblico reagirà o non reagirà. E in pratica siete costretti a parlare per quella che pensate essere tra i presenti la persona più stupida, anche per rendersi accattivanti, facendo scialo di quella sciocchezza nota come personalità. Se non lo fate, il risultato sarà sempre un clima di freddo imbarazzo. In trasmissione queste condizioni non esistono. Il poeta sente che si rivolge a persone per le quali la poesia significa qualcosa, ed è un dato di fatto che i poeti che vengono utilizzati per la trasmissione riescono a leggere davanti al microfono con un virtuosismo che non sarebbe lo stesso se di fronte avessero un pubblico visibile. Il poeta è messo nella situazione in cui leggere versi ad alta voce sembra una cosa naturale e tutt'altro che imbarazzante, uno scambio normale tra uomo e uomo. Non solo, è anche indotto a pensare al suo lavoro come suono, piuttosto che come traccia sulla carta. Così la riconciliazione tra la poesia e l'uomo comunque si fa più vicina. Anche se la BBC dimostra scarso interesse per la letteratura contemporanea, è più difficile mandare in onda 5 minuti di poesia che non 12 ore di propaganda menzognera, di musica in scatola, di barzellette stantie o di finte discussioni. Ma questo stato di cose può cambiare. E quando arriverà quel momento, diventerà possibile trasmettere versi nel totale disprezzo delle varie influenze ostili che impediscono oggi una cosa del genere. Non è certo che il microfono sia lo strumento grazie al quale la poesia potrà essere riportata alla gente comune, né è certo che la poesia trarrà vantaggio dall'essere più parlata e meno scritta. Ma insisto nel dire che queste possibilità esistono e che coloro che hanno a cuore la letteratura dovrebbero volgere più spesso le loro menti a questo mezzo tanto disprezzato. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani del saggio di George Orwell, Poesia al microfono, la cui traduzione italiana viene proposta sull'ultimo numero del trimestrale Lettera Internazionale. Per rallentare l'invecchiamento mentale degli anziani arrivano gli occhiali che aiutano a ricordare. L'idea viene da un neurologo di 85 anni. Un paio di occhiali che stimolano le onde alfa del cervello e potenziano la memoria. Non è un accessorio da supereroi, bensì il risultato di 10 anni di ricerca di un ex primario di neurologia vicentino, Francesco Ferro Milone, che oggi ha 85 anni e ha creato un apparecchio chiamato Mnemosline, Al posto delle lenti ha due LED a luce rossa e tramite impulsi luminosi aumenta l'attività delle onde alfa, favorendo il recupero della memoria. Ferro Milone l'ha realizzato con il collega Adolfo Porro, ex primario di geriatria. Da quando siamo in pensione, racconta, facciamo volontariato nei centri per gli anziani e cerchiamo un modo per rallentare l'invecchiamento mentale. L'idea, usare la luce intermittente per sollecitare la memoria operativa, è un filone su cui lavorano anche all'Università di Oxford. Loro però, precisa Milone, si sono concentrati sugli effetti immediati, noi su quelli a lungo termine. Entrambi abbiamo usato impulsi luminosi con frequenza sui 10 Hz, che corrisponde alle onde alfa di una persona media. Negli anziani questa frequenza rallenta progressivamente. L'uso di mnemosline, che trasmette segnali luminosi a frequenza sempre più alta fino a 13 Hz, con il tempo riesce a trascinare le onde alfa, riportandole a livelli migliori. L'abbiamo sperimentato su 200 volontari anziani. Dopo 5 anni, il 60% aveva più memoria operativa e meno depressione, misurate con test psicologici, e una maggiore ampiezza e regolarità delle onde alfa, mentre il 40% era rimasto stabile. I 200 del gruppo di controllo, invece, hanno avuto un peggioramento. La cronista ha voluto provare. La sensazione è stata quella di vedere attraverso le palpebre una nube di lampi rossi e pulsanti con una frequenza crescente che rendono rilassati e lucidi. Gli occhiali saranno disponibili nei centri della memoria delle ASL. Per ora ne esistono due in provincia di Vicenza, altri stanno per aprire. Prima di applicarli verrà fatto un test con l'elettroencefalogramma per calibrarli sull'ampiezza delle onde alfa del paziente. La terapia dovrà durare almeno 6 mesi, 2 volte al giorno per 10 minuti, proprio come una sorta di allenamento quotidiano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Porcelli, Gli occhiali per ricordare, da Panorama del 2 maggio. Nelle città dove è più alto il tasso di immigrazione dai paesi islamici, spesso capita che la popolazione locale abbandoni i centri storici e diserti le chiese cristiane. L'integrazione è una necessità, scrive Aldo Cazzullo in un editoriale pubblicato sul Magazine 7, ma funziona solo se chi accoglie è consapevole di se stesso e della propria cultura. È mattina a Bordeaux. Ai margini del centro storico svetta magnifica la guglia della Basilica di Saint-Michel, l'edificio più alto della città, uno dei simboli francesi della cristianità. Il portone però è sbarrato. Apre alle 10 e sono solo le 9:30. E le chiese della nostra infanzia aperte all'alba per le prime messe? Qui messe non se ne celebrano. Solo la domenica alle 11, una alla settimana. Poi mi guardo intorno. La guglia gotica di Saint-Michel è completamente circondata da macellerie islamiche, aperte da ore e piene di clienti. Cosa se ne fanno di una chiesa? È già tanto che non la trasformino in moschea. Poco più in là c'è una basilica ancora più antica, romanica. Il portale con le figure dei mesi, scanditi dal lavoro dell'uomo e dai segni dello zodiaco, è di commovente bellezza. Peccato sia sbarrato anche quello. Anche qui una sola messa alla settimana, domenica alle 10, per non togliere fedeli a Saint-Michel. Si può affrontare la questione alla Marine Le Pen, investendo sulla paura, o alla Sarkozy, che pure ci specula sopra, promettendo di imporre lo stesso menù in tutte le scuole di Francia. Ma costringere i bambini musulmani a mangiare carne di maiale non è solo aberrante, è inutile. Così come vietare la costruzione di nuove moschee, che oltre a ristabilire la dignità degli islamici, consentono di prevenire le prediche dell'odio. Si controlla meglio un imam scelto d'intesa con lo Stato che parla in un luogo pubblico o un imam autoproclamato che arringa una folla semiclandestina in un sottoscala o in un garage. L'integrazione è una necessità, ma funziona solo se chi accoglie è consapevole di se stesso e della propria cultura. La diversità è una ricchezza quando si aggiunge, non quando sovrasta. Nessuna comunità può reggere all'impatto di un'immigrazione con i ritmi e i numeri di quella, per esempio, del Bresciano o di Reggio Emilia. Oppure vogliamo abbandonare i centri storici, i luoghi della vita da secoli, incluse le chiese, per ritirarci nelle villette di periferia e nei centri commerciali? Non sarebbe un impoverimento per tutti? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Cazzullo, Chiese chiuse, dal Magazine 7 del 26 aprile.